intorno a te, come la gira intorno al fiore di lilla, come la regina gira intorno al proprio re. Il mio amore è una ruota che non si ferma mai, giro intorno a te e nemmeno il sole gira tanto come me. Giro per scoprire tutto quello che c'è in te. Il mio amore è una ruota, ma la verità è che l'amore gira finché va. Se manchi tu non gira più, quando tu mi lascerai. Tu sei qui con me e mi sto bruciando come un chicco di caffè. Il mio amore è una ruota che non si ferma mai. Come me, giro per scoprire tutto quello che c'è in te.